L'ingenuo di turno che non ha provato, il cui sguardo a volte fa male. Si è ritrovato un giorno d'agosto, anche lui ad essere speciale. Bastava poco e poco ha usato, e adesso che ne sa più di me. Bastava poco e poco ha tentato, e adesso ecco quello che è. Neanche il castoro si sarà dichiarato, ma lui è speciale perché con tanta rabbia e dissacrazione ha infranto tutto quello che c'è. Lui spacca e ruba la felicità a chi già ne ha poca e non sa che far. Non sa neanche la sua specialità, eppure esplode la sua maestà. Riccioli neri o riccioli d'oro, si sveglia sicuro di sé. Con la sua arma segreta e nascosta, distacca la plebe da sé. Io in potenza e tu ormai nato, che forma di speculazione mai? Ma quando un giorno davvero in alto, chi ride, chi piange, chissà. Non chiedermi cosa sia questa specialità che c'è dentro di loro, in me non la troverai mai, perché il dittatore dall'alto del trono già sfodera i suoi programmi. Peccato proprio che questa sua vita la valuti soltanto in grammi. Un paio oggi e un paio domani, le stelle lo attendono più che mai. Proprio per questo la specialità è parte assoluta di sé. E chi lo segue, neuroni bruciati, è detto speciale perché con la sua essenza e solo presenza affascina i seni per sé. Ma io che resto nascosto da te, ti piango a prescindere da quello che, quel che c'è stato fra me e te, ricorda se non era per me. Non chiedermi cosa sia questa specialità che c'è dentro di loro, in me non la troverai mai, perché, chissà perché. Vi lascio quel che è, ora è ancora, che avete dato a me. Ora è ancora, vi lascio quel che è, ora è ancora, che avete dato a me. Ora è ancora, vi lascio quel che è, ora è ancora, che avete dato a me. Ora è ancora, vi lascio quel che è, ora è ancora, che avete dato a me. Ora è ancora, vi lascio quel che è, ora è ancora, che avete dato a me.